a tutti e benvenuti al quinto episodio del podcast del Tentacolo Viola. Oggi, insieme ai soliti tre, ovvero il sottoscritto Davide Moretto, Gianluigi Briguglio, ciao, e Andrea Materna, ciao, abbiamo con noi una delle migliori menti che l'Italia si è fatta sfuggire, la donna che non avrebbe alcun problema ad andare a lavorare ad Arkham, direttamente da Londra, capitale dell'Inghilterra, la dottoressa Valeria. Ciao Valeria. Wow, ciao, grazie per la presentazione. Figurati, d'altronde sei emigrata sul serio, quindi non è che si può dire. Spiego un attimo ai nostri ascoltatori. Valeria è qui in veste sia, come dire, di fidanzata di un super hardcore gamer, sia anche perché... sia anche perché fa una professione che a volte potrebbe, come dire, toccarci da vicino, ma questo lo lascio dire a lei. Dici un po', Valeria, chi sei, cosa fai nella vita, perché sei qui e vari eventuali. Beh, io sono una psichiatra e sono trasferita a Londra per fare ricerca soprattutto nell'ambito della psicosi, quindi penso che perfetto, sia molto vicino a tutti quelli che giocano ai videogiochi. No, scherzo, però... Che bello! Siamo subito bene! Però qua siamo anche peggio, perché cioè, si parla di gente che ascolta gente che parla di videogiochi. Cioè... una cosa abbastanza sì, autoreferenziale. In realtà, infatti, ho trovato subito molto interessante questo nuovo campo, ho detto sarò la nuova avanguardia per la ricerca in psichiatria, ho pensato, e quindi eccomi qua con voi. Brava. A studiarvi da vicino. Brava, brava, ma non solo, tu hai anche una persona in casa che studi da vicino. Purtroppo sì, che tra l'altro sta giocando adesso. Ovviamente. Sta uccidendo, ovviamente. Non lo so, che... Henny, what is this? Cosa? Modern Warfare. Modern Warfare. Ok. Sì. Ecco. Appena ucciso uno di nuovo. Ovviamente, ovviamente. Faremo qualche piccolissima domanda così velocissima. Posso iniziare io? Inizio io. Come essere la fidanzata di un giocatore? Perché lo sappiamo che il tuo ragazzo gioca tanto, abbastanza tanto. Com'è? Dici. Com'è? È brutto, no? Dipende da quello che vuoi fare. Se vuoi spazio per te stessa, ecco, diciamo che potrebbe anche andare bene. Non lo so, è penso sia un hobby come un altro, soltanto che, insomma, a volte può essere un po'... Lui tenta di coinvolgerti? Ogni tanto sì, anche perché mi ha regalato un rock band che non me ne poteva fregare un po' di meno. Come? Tanto lui non capisce adesso l'inglese, quindi... Beh, però ha sentito rock band e te che ridi. Sì, effettivamente potrebbe essere un indizio, questo. No, sarà inglese, ma non è stupido. Che ne sto parlando benissimo, ah, quindi okay. Sono molto soddisfatta del gioco, diciamo. Però Guitar Hero ti era piaciuto, se non mi ricordo male. No, sì, Guitar Hero mi era piaciuto, però dopo un po', non lo so, io un po', dopo un po' mi annoio, sinceramente. Forse ti regalare un Wii? No, no, quello lo troverei ancora più noioso. L'unico che mi ha divertito è stato Little Big Planet, quello l'ho giocato tutto, è stato carino. Tutto hai giocato? Sì, vabbè, in un anno, voglio dire, c'è stato tempo di giocarci. E, scusa, mi ricordi che console avete in casa voi? L'Xbox 360 e la PS3. E vabbè, poi lui ha la PSP sua, che si porta ovviamente ovunque, tutte le volte che viaggiamo. Una tragedia, diciamo. E perché si porta l'hobby anche in giro per il mondo. Sì. Qualche domanda alla dottoressa Valeria? Bravo. Sei una dottoressa, io sto male, cosa devo prendere? Lei ti dà 20 cc di torazina e ti stende. Infatti, potrei consigliare qualche psicofarmaco così, ma... Aspetta, buttiamola subito sulla polemica. Ma secondo te i videogiochi generano psicopatici assassini? Oh, finalmente. Ma no, ne parlavo l'altro giorno anche con lui, che mi ha mostrato questa scena allucinante in cui i terroristi sparano ai civili. Sì, vorrei ricordare che è il livello No Russian di Modern Warfare 2, giusto per chi ci ascolta, ecco. Cosa ne pensi di un livello del genere, per esempio? Cioè, se uno non è particolarmente centrato, può fargli scattare qualcosa o sono buffonate? Ma no, penso che, no, vabbè, ovviamente dal punto veramente professionale, cioè, se non sono cose in realtà che secondo me possono iniziare a suscitare delle psicopatologie, per cui uno prende e inizia ad ammazzare gente fuori, se lo fa è perché ha dei problemi, diciamo, precedenti. Oh. Però quello che mi stupisce è il fatto che lui ci giochi senza rimanerne, diciamo, particolarmente colpito. Cioè, non so se anche a voi capita così. Cioè, io le teste che ho nel frigo mi dicono, cioè, non mi colpisce più niente quando uccido gente, però non so. Cioè, io capisco che lì è un po' come spari uno, spari l'altro, non importa. L'importante è centrare un bersaglio, però... Non lo so, a me a vederlo fa un certo effetto, non lo so. Io quel livello, cioè quel gioco lì non l'ho giocato, però avevo visto il filmato su YouTube e a me un po' aveva fatto impressione. Immagino dipenda da quanto ti fai coinvolgere dall'ambientazione della storia, cioè se sei preso magari ti colpisce, se lo stai vivendo solo come il giochino in cui spari, non ti, è come se fossero certo. Altri pupazzetti a cui spari, credo funzioni così poi. Sì, anche perché infatti poi alla fine dipende oggettivamente, se poi tu ti diverti allora ad ammazzare i civili, allora forse lì inizierai un po' a... ecco. Se cerchi, quando giochi a League Table Plane, di torturare i pupazzi, dici ma l'opzione non c'è, allora forse c'è allora qualcosa. Forse c'è qualcosa, ecco. Cerchi di attaccare adesivi ovunque. Adesivi di morte. Cerchi di sniffare gli adesivi, eccoli, forse anche ci sarà. Però, ad esempio, io quando guardo un film, cioè tipo mi piacciono i film horror e amo se non c'è il lieto fine, quindi dovrei essere un po' sadico anche quando... Invece quando gioco i videogiochi non ci riesco a fare il cattivo. Se c'è una scelta fra salvare uno e ammazzarlo, mi viene sempre da salvarlo. Quindi tu in Bioshock salvavi le sorelline? Assolutamente, non ne ho fatta fuori neanche una. Bravo, pure io. Io ho fatto una strage. Ecco, Davide, parliamone, infatti, voglio dire. Infatti, la mia dolce metà guarda sempre strano quando ho mio figlio in braccio, però vabbè, siamo tutti tranquilli qua, assolutamente. Allora, io direi di partire con le news di oggi, visto che non è successo praticamente niente nel mese passato, c'è stato il CES, il Consumer Electronic Show, giusto? Che è stato proprio un cesso. È stato un cesso perché non hanno presentato assolutamente nulla. No, io oggi parlerei di un po' di roba di cui non abbiamo mai parlato, per la verità, di nuove tecnologie che arriveranno prossimamente e non prossimamente. E per esempio Sony ha parlato apertamente, ha commentato i servizi di OnLive e Gaikai, che adesso andrò a spiegare per chi non li conosce, e ha detto che sì, sono delle cose simpatiche, ma tanto la tecnologia non c'è ancora, e quindi console vivranno ancora per anni. Velocemente, soprattutto OnLive è un sistema che basa il suo esistere sul cosiddetto cloud gaming, ovvero i PC e i server stanno in un posto dislocato nel mondo a caso e l'utente, attaccandosi con un plugin del browser o con uno scatolotto che acquista apposta, che attacca la televisione, può giocare in remoto a qualsiasi gioco che loro mettono a disposizione. Mi pare, se non erro, che loro avevano fatto vedere delle dimostrazioni con Crysis, con Burnout Paradise e roba del genere. Quindi uno non deve avere il PC super pompato, la console di ultima generazione, c'ha sto scatolotto, paga un abbonamento e gioca al cacchio che vuole. Innanzitutto, Valeria, non avere 800 console in casa, ma avere uno scatolotto o neanche quello, ti sarebbe utile? Direi di sì, non lo so perché, poi vabbè, da donna che pulisce ovviamente la casa, la PS3, cioè, attira un casino di polvere, io non so come mai, però... Ogni tanto, cioè, non so se voi lo notate, sarà guarda, te lo confermo, lucido nero. Te lo confermo da uomo che non pulisce mai la casa. Sì, è vero. La mia PlayStation 3 ormai è grigia più o meno. No, però devo, se non sbaglio, quella Slim l'hanno fatta non lucida. Qualche donna avrà telefonato al signor Sony a dire scusate, potete farla ruvida, o sbaglio. È ancora lucida la Slim? No, non dovrebbe essere lucida. Però forse quello è l'unico, insomma, non è che poi occupi uno chissà quanto spazio. No, dire. Però anche la corrente, tutto, insomma, potrebbe essere un metodo... Sì, però se poi c'è questo fatto che devi essere connesso a internet e la connessione cade, sentire tuo fidanzato che cristona ogni 3 secondi perché non riesce a giocare, non lo so se sia molto meglio, non lo so. No, ma quello è il minimo. No. I problemi di queste cose qui è il minimo, il massimo sarebbe la lag. E difatti, beh, sia il problema di disconnessione, diciamo, è il problema più grave che può capitare, ovviamente. E, vabbè, intanto ti disconnetti e via. Però sì, giocare cosa nel monitor viene dopo 2 secondi, 1 secondo è impossibile. Impossibile, sì. Impossibile. C'è un po' di suspense, non sai mai. Sì, ho capito. Peccato che è sempre così. Cioè, è come giocare costantemente a ogni gioco come se fosse PES 2008 online. No? Sì, potrebbe essere frustrante, sono d'accordo. Mi immagino un gioco di guida alla Forza 3 o a Gran Turismo 5. Rido perché ho letto la notizia oggi, ma poi la citiamo come ultima cosa. La cosa lì. Sì, no, invece secondo me questi servizi potrebbero essere una figata, perché comunque pagando un abbonamento umile uno può giocare un po' al cacchio che vuole, alla massima grafica. Il problema appunto è quello, perché quello che vede l'utente finale è un video che viene compresso e mandato via, via internet, diciamo, di quello del gioco che sta girando su, una, su un computer remoto. Quindi non è neanche, puoi dire, il gioco vero e proprio, ma è un filmato del gioco. Mi sembra di aver capito che funzioni così, no? Caspita, però se funziona così non c'è per forza un minimo di lag, per quanto buona sia la connessione. Cioè, non lo so, Cioè, mi pare che ci sia negli Stati Uniti, abbiano fatto, stia iniziando adesso l'open beta di On Live. Credo che sia un sistema troppo all'avanguardia oggigiorno, un'ottima idea ma troppo all'avanguardia. Il giocare ha bisogno del tempo, del lag zero, figuriamoci col server negli Stati Uniti e noi che giochiamo nel paesotto di fianco, nella periferia del paesotto di fianco a Milano, insomma. Spero che se avesse successo una roba del genere farebbero i server un po' in giro per il mondo, perché sennò... Ah no, dei centri commerciali pieni di server. Al posto del McDonald's, dei server. Sì, che incubo. Speri di vivere fino al 2500, no, dico, quindi... Quella sarebbe... No, ammetto che per vedere queste cose, magari allungare la prospettiva di vita non mi dispiacerebbe, ma solo per questo. E sempre sul lag, invece, parliamo di Natal. Hanno fatto vedere anche questo di nuovo al CES e hanno detto che tolgono un chip perché costa troppo, se no, e quindi parte di quello che avrebbe dovuto fare in versione hardware lo farà in versione software, come dire, gestito direttamente dal 360. A parte, Valeria, che so già che tu ti dimenerai per tutto il salotto facendoti riconoscere da questo oggetto, però ne parliamo dopo. Vabbè. Anche qui, secondo voi, ha senso per mantenere il prezzo basso, magari, come dire, tarpare una cosa importante come la risposta dei comandi di Natale, che Microsoft ci punta tanto su sta cosa, Ma il lag è perché levano il chip o comunque il lag c'è a prescindere da questa cosa? Allora, io ho letto che il lag ci sarebbe stato comunque anche col chip, ma visto che avrebbero potuto ottimizzare la cosa e quindi ridurlo, non eliminarlo, ma visto che costa troppo, hanno tolto il chip e comunque il lag di 100 millisecondi, che facendo quattro calcoli è un decimo di secondo, non è poco, è per una cosa che gira in locale. Soprattutto se veramente devi giocare a roba tipo Burnout Paradise, che l'hanno fatto, quello sì che l'hanno fatto testare. Cioè, allora, Burnout Paradise su Natal secondo me sarà come Dirt 2 su Wii, cioè ma... la merda. Nel senso, dai, ma Natal sarà come il Wii, faranno tre giochi che sono veramente belli da giocare con Natal, una marea di puttanate e fine, cioè penso che sia abbastanza evidentemente così, ed essendo questo, ma chi se ne fotte se c'è 100 millisecondi di lag, tanto per giocare a Natal Sports e Natal Music, voglio dire. No, Natal Music, terrificante. E tu Gianluigi ti comprerai il 360 per Natale? Visto che no, non penso proprio. Non te ne frega una mazza? Ma proprio niente, a parte che non ho i soldi, quindi andiamo subito il problema. E la controparte Sony? Il PS3 Wand? Ma dipende sempre cioè, da cosa ci fanno, capito? Cioè, se viene veramente un Wii 2 con la super grafica, se lo possono denare. Un Cookie Mama in alta definizione, 80p. Siamo a soddisfazioni a fare un bel pollo che si vede bene. E invece, Valeria, fare un bel gioco di danza jazz nel salotto, come la vedi questa cosa? In realtà no, mi sembra una roba. Se non mi ricordo male, che il tuo fidanzato appena legge Wii inizia a vomitare dicendo è per bambini e per bambini, che schifo, sì. Se non mi ricordo male. Sì, esatto. quando penso a Natale è ancora peggio, perché dice non c'è manco una roba con cui neanche da tenere in mano. Effettivamente, non lo so, anche a me guardandola sembra un po' una roba strana, poi... Vedere uno che si agita davanti alla televisione, cioè voglio dire, ragazzi, già vedervi così imbambolati con il joypad in mano già non è proprio il massimo del sexy. Pensare che uno che non c'ha manco il joypad in mano, che si muove davanti alla televisione, probabilmente inizierei a urlare. Ma joypad vibra, lo sai, vero? Ci sono pagine e pagine di forum dove si prospettano i peggiori metodi erotici per Natale, questo devi saperlo, perché insomma, che l'idea è anche... Mi arriveranno pazienti che avranno disturbi di tipo, vabbè, no, non andiamo troppo nei dettagli. Ma tanto potrei sempre dare l'unica cosa carina che mi sembrava, vedendo un po' tipo su YouTube di queste cose di Natale, era il fatto di potersi vedere cambiare il vestito e vedere come stai col vestito diverso praticamente. Ah, eccolo qua, il core business. Che ti compri un aggeggio di 100 euro solamente per cambiarti il vestito davanti alla televisione. Io hai capito, cioè tutte le volte che devi uscire non ti devi cambiare, fare i 12 cambiamenti di vestito per capire quale vestito ti sta meglio, guardi un attimo la televisione e vedi quello che ti vuoi mettere, quella sarebbe carina. Se Microsoft sente questa puntata del podcast ci fai i soldi su sta cosa. Vabbè, per una ragazza che prima di uscire si deve sempre provare 8000 versioni di vestiti, scusa. Io mi vedo da Zara davanti a un monitor, gente che invece di tirare giù 300 maglioni, ah, le piace questo, una figata. Peccato che non c'entri una mazza videogiochi, però è una figata. Sì, non era molto carina, era l'unica cosa che mi sembrava, insomma. Questo... Beh, è un'evoluzione dei negozi online, un motivo in più per non alzare il culo dal divano e andare in giro per negozi. Provi i vestiti di Zara direttamente da casa e ti arrivano a casa. Ma fantastico, no? Ma soprattutto ormai saranno vestiti solo per obesi ormai. Sì, infatti, taglia SML, dimentichiamocene. Bene, bene. Beh, vedo che stiamo tirando fuori delle idee di marketing non da poco, grazie alla fanciulla che vede tre cose in un punto completamente opposto da noi. Io già vedo a spararmi con gli alieni e lei vede a cambiarsi i vestiti da Zara. Beh, ma secondo me sarà tantissimo così Natale. Voglio dire, guarda, senza Natale cosa fanno con gli avatar? Ha messo i vestiti da comprare. Sì, sì. Tra l'altro io ho comprato la maglietta dei Philadelphia Eagles. Insultiamo, è la gente che cambia i vestiti. Non solo, ma aspetta, ho anche dentro dei punti omaggio, ammanicata, però ho anche preso il pupazzo di tigro. Carino! Che ogni tanto il mio mino lo tira fuori e ci gioca. Ah, è un pupazzo che dai, sì, in mano all'avatar. Esatto, sì, penso che Gianluigi si stia tagliando le vene in questo momento. Gianluigi che ha preso del veleno per... Si alza dalla febbre, guarda, della giù. Allora, comunque non abbiamo citato l'estetica della bacchettina magica PS3, che è veramente disgustosa, con questa pallina rosa in cima. Ma la pallina penso che sia necessaria per far riconoscere la telecamera. Sì, ho capito, ma sembra uscita dalle rivistine, quelle anni 80, con le pubblicità dei vibratori. Sì, che ti allunga il pene. È inguardabile. Ma peraltro non ho capito, sono tutte, te ne danno due, non una sola, tipo appunto Wii e tipo Wiimote e Nunchuck, no? Nella confezione. Credo che adesso faccio veramente una figura di quello che non tanto distante. Sugli altri podcast ci danno degli incompetenti. Sì, infatti, tanto siamo degli incompetenti, quindi. Ma se non ricordo male, ne puoi usare due, ma te ne danno una, devi comprarla la seconda. Okay. Non sono assieme, tant'è che dicevano che è difficile che escano molti giochi che supportino il fatto che ne usi due, perché magari la gente, sì, non se ne compra, okay, due. Beh, però potrei stare dicendo una cosa. Ma ci piace così. Tra parentesi, tu avendo già la telecamera dovresti comprarti solo l'aggeggio. Sì, infatti sono a posto. Spero che succeda come con la telecamera, cioè mi arrivi un gioco da recensire col bundle. Ah, non l'hai comprato? Ma sei matto? Va bene, va bene. Andiamo avanti. Qua ti lascio campo libero, caro Andrea, per parlare di BioWare, JRPG, Final Fantasy XIII, un sacco di roba. In realtà la notizia è che credo ne abbiano parlato tutti i podcast del pianeta ormai. Ma noi arriviamo dopo perché siamo più... Però sostanzialmente è successo che, come capita sia Greg Muzica, non so come si pronuncia, sì, qualcosa di BioWare... sostanzialmente ha detto che i JRPG, insomma gli RPG giapponesi, stanno un po' andando a quel paese perché sono fermi, non sono stati capaci di rinnovarsi, di innovare, via dicendo. E tutti quelli che hanno commentato questa cosa hanno detto, oh sì, Musica ha ragione, è troppo un figo, i giapponesi fanno cagare, e via dicendo. Ora, scusa, ti interrompo, dire che i giapponesi fanno cagare è effettivamente lo sport nazionale di noi nerd videogiocatori da qualche anno. Ma infatti io, pur volendo fare bastante contrario, sono assolutamente d'accordo sul fatto che i giapponesi non sono più capaci di fare niente, non si rinnovano e tutto. Anche se comunque c'è da dire che Square con Final Fantasy 11 e 12 un pochino ci ha provato a fare cose diverse dal resto della serie. Poi Final Fantasy 12 l'hanno comprato in 4 e quindi ha detto vabbè, torniamo indietro. Okay. È vero che non si rinnovano, però insomma, Musica, che a parte che a me sta sulle balle perché l'ho intervistato una volta e sembrava di intervistare un comunicato stampa, cioè mi avesse detto una cosa interessante, ma voglio dire, ok, loro qualcosina di nuovo avranno fatto, ma parla uno che è di una compagnia che, cioè, i giochi su cui campa adesso sono Mass Effect, che è Knights of the Old Republic, uguale, solo che hanno tolto i combattimenti GDR, hanno messo, fatto, spara tutto, ma per il resto c'è la stessa struttura, l'astronave, parli con i personaggi, è identico a Knights of the Old Republic. E Dragon Age, che è Baldur's Gate, cioè un gioco di 10 anni fa, rifatto oggi, dichiaratamente uguale, con la grafica di 5 anni fa, tra l'altro. E questa sarebbe gente che innova, ma va benissimo, sono bei giochi, ma non mi sembrano questi tagli netti col passato, soprattutto col loro passato. Cioè, mi sembra un po' che la faccia fuori dal vaso, mettersi a criticare gli altri perché non cambiano le cose. Gianluigi, tu che sei un fan sia di Final Fantasy che comunque stai giocando Dragon Age, cosa ne pensi? Ho finito Dragon Age, ho iniziato Mass Effect, effettivamente sono tutti uguali questi giochi. Ho giocato KOTOR e KOTOR 2, ci sono la pausa, le scelte che ti fanno cambiare la storia, l'avanzamento del personaggio, sì, sono tutti identici, sì. Però cambia l'ambientazione. Sì, sì, ma cioè, vabbè, poi la differenza è che invece di esserci 7 pianeti ce ne sono 700, ma tanto quelli belli sono 7 comunque. Aspetta, questo non voglio dire, non mi piacciono, io adoro questi giochi qua della BioWare. Anche a me piacciono, anche a me. Però dico, stiamo attenti a come parliamo di questo disco qui, musica qua. Non si deve permettere di queste cose. È una disamina, secondo me, corretta, anche se visto da io che non sono un grande fan di JRPG in generale, mi piacciono di più quelli occidentali, anche se non ho il tempo e la voglia di finirli, quindi ho giocato il primo KOTOR e l'ho finito, e poi il resto li ho iniziati tutti e non li ho mai finiti, anche Mass Effect. KOTOR 1 è veramente bello. 1-1, sì, KOTOR 1 avevo finito. Il 2 già perde molto. E il 2 mi sono fermato, penso, prima della metà. Mass Effect idem, Dragon Age non l'ho neanche comprato per adesso, quindi però secondo me la parte giapponese è proprio troppo evidente, il fatto che è sempre lo stesso gioco. Sarà che appunto forse in Occidente riescono a fare delle caratterizzazioni più vicine a noi, quindi noi percepiamo molto diversi l'ambiente fantasy di Dragon Age dall'ambiente futuristico di Mass Effect, mentre io quando gioco a un Final Fantasy, soprattutto quelli con la grafica Final Fantasy 10 e 12, a me sembra sempre lo stesso gioco, sempre gli stessi personaggi, sempre cioè non noto la differenza proprio. Sì, è vero. Però cioè, il mio discorso è che secondo me BioWare fa esattamente quello che fa Square, la gente vuole il gioco di ruolo tradizionale e loro glielo danno. No, dico, però come dicevi prima, effettivamente Square almeno quel passo in più l'ha fatto col 12, no? E infatti il paradosso è che Square anche questo, veramente. No, infatti, cioè, il paradosso è che in realtà Square Enix si è preso tutto sommato un bel rischio con Final Fantasy 12, perché ha fatto un gioco che ha finito per alienare quelli che volevano il solo Final Fantasy, e però siccome comunque c'aveva sempre quello stile grafico, quell'ambientazione lì, non è riuscito ad attirare quelli che magari avrebbero potuto apprezzarlo, e questa qua non è un'analisi mia, l'ho letta l'altro giorno su Edge. E si fa bello con le pubblicazioni altrui. Ah, però lo dico. Però, cioè, voglio dire, mi sembra molto più un tentativo di rivoluzionare quello rispetto a qualsiasi cosa abbia fatto BioWare negli ultimi anni. Sì, quello è vero, però BioWare, non lo so, riesce a confezionare dei giochi... Boh, secondo me i giapponesi la pensano completamente l'opposto, dove loro comprano 2 milioni di copie di Final Fantasy il giorno di lancio, sì, e probabilmente Dragon Age non sanno neanche come si scrive, quindi... Vabbè, ma lì è una questione di interessi per quel cioè, insomma, il tipo di narrazione. Scusami, comprano Dragon Quest, che è bellissimo, ok, però è sempre identico, lo stesso gioco dal 3, dal 4, sono sempre uguali, identici. Eh sì, Dragon Quest è una cifra. E vende forse ancora di più di Final Fantasy. Sì, ma infatti dagli torto a sta gente, cioè dice, ah, non sono riusciti a rinnovarsi, ma sai che gliene fotte, continuano a vendere milioni di copie, cioè scusa. Sì, sì, è come Activision con Guitar Hero, fa sempre lo stesso gioco, chi se ne frega. E tra parentesi, Final Fantasy 13, che è uscito appunto a metà dicembre in Giappone, che ha venduto uno sfacelo di copie, su un magazine di Hong Kong, ma questa è un'altra notizia che hanno parlato cani e porci, gli hanno dato un bel 4 su 10 che, dicendo il peggior scherzo del no, il più grande scherzo del 2009, perché proprio dicono che il sistema di gioco è ridicolo chiamarlo RPG, l'entusiasmo gli è andato 1 di entusiasmo, perché c'è anche entusiasmo, come se si potesse giocare per 100 ore, questo è il commento, mentre la grafica è 9, quindi il totale 4. Quindi boh, adesso vedremo quando arriva in Italia, in Europa, in America, in una lingua comprensibile, perché mi sembra che sia tutto in giapponese, non è neanche parlato in inglese, proprio tutto... Sì. Ma si parlava di problemi di linearità, no? che era troppo lineare, che non c'erano... Tra parentesi, proprio perché evidentemente avevano troppi problemi di linearità, penso sia notizia di oggi, di ieri, uno dei, del team ha detto apertamente che il gioco sono stati costretti a tagliare così tanta roba che ci sarebbe già roba gratis per un nuovo Final Fantasy. Cioè, tutti hanno pensato, grazie che ce li vendete a 29 euro in download content, due mesi esatto. dopo che è uscito il... Facciamo un po' di console war, è colpa della conversione per Xbox 360. No, invece dicono che i giornalisti che hanno potuto mettere le mani su entrambe le versioni dicono che è esattamente uguale, che non c'è... Dici come tempistiche? Sì, esatto. No, come tempistiche, anche come contenuti, che probabilmente avrebbero dovuto fare troppi DVD per la 360. Dovranno splittarlo su più DVD sull'Xbox. Adesso non so quanti ne verranno fuori, però una bella cifra. Mm. E tu, dottoressa Valeria, cosa ne pensi di questa cosa di cui non sai nulla e non te ne frega? Infatti sto facendo fatica veramente a seguirmi. No, perché il problema è che questo è un genere che il tuo fidanzato non credo abbia neanche mai toccato con il bastone con cui, non so, picchia i bambini mentre va a lavorare, quindi... Ma stiamo parlando dei downloadable content? No. Scariamo tra poco. No, questi sono i giochi di ruolo occidentali e i giochi di ruolo giapponesi. Dico, glielo può pure chiedere adesso, no? Vero. Ma stai giocando, però l'impressione che mi manderebbe a scendere, non so poi cosa di BioWare, vedi cosa gli dici. No, sta giocando online sicuramente, quindi è meglio non rompere i coglioni. Potremmo avere in diretta un videogiocatore che impazzisce e comincia a sparare nella porta. Sì, potreste anche vedere come si tratta il ragazzo videogiocatore incazzato, ok? Però Abbastanza. Ma come hai fatto a dire che avremmo parlato di downloadable content? Chissà come mai. Sei veramente... pare invece che i downloadable content, quelli aggiuntivi, ovvero dai vestiti dei pupazzetti di Little Big Planet a cose più corpose... tipo livelli interi al mitico epilogo di Prince of Persia che tanto mi ha fatto godere, che gli avrei, dopo aver finito il gioco, gli avrei sgozzati quelli di Ubisoft, pare che abbiano avuto un successo miserrimo. A parte che io so che noi tre siamo della gente che col cazzo che comprerebbe downloadable content, se non ricordo male. Esatto, anche tu Andrea mi sai che non hai mai... Ma in realtà è che non mi è... credo mai capitato di giocare a un gioco che ne avesse di interessanti, cioè nel senso... Ma quelli di Dragon Age li hai visti? No, ma Dragon Age devo ancora giocarlo, giocato un po' così a pezzetti, ma non mi sono ancora messo... No, ce ne sono un paio che speravo di... Dragon Age è imbarazzante, il fatto che tu stai parlando con un personaggio e ti dice se vuoi andare avanti, scusa. Lo spacciatore di droga. Il gioco di ruolo, l'immersione, la storia... Arrivi là, fai questa bella missione tutto contento e poi dice, bene, se vuoi continuare questa missione scarica il download content... Senza vergogna, veramente. E voi dall'altra parte della manica li comprate roba tramite i negozi online di PlayStation 3? Niente? No, mai. No, lui è anche molto contrario, cioè non è interessato di solito. Io poi ovviamente non gioco quasi mai, quindi... Ma neanche le canzoni di Rock Band, per esempio, di Guitar Hero? Ah, ecco, io quelle le ho comprate, tra l'altro. E io un paio le ho comprate anch'io di quelle, sì. E io no. E tu non hai Guitar Hero? Io ho Guitar Hero, veramente. Ah, ce l'hai Guitar Hero? Io sì. Ah, pensavo ti facessero cagare quei giochi lì. No, faccio schifo proprio in una maniera impressionante, però ce l'ho. Ma le compri perché c'è qualche pezzo in particolare che ti interessa suonare? Sì, perché c'era la chitarra che mi piaceva. No, dico i downloadable content, prendi solo perché c'è una canzone in particolare, non perché in realtà... Tipo con le singole canzoni o magari di album interi, tipo è uscito questo il primo disco dei Pearl Jam. Sì, esatto, è uscito il primo, no? Era uscito per Guitar Hero, no, per Rock Band. Sì, per Rock Band. Visto che Valeria, tu i Pearl Jam non sai neanche chi sono, immagino. Vabbè, sono usciti dei dischi dei Beatles, no? Ma sto scherzando, lei è una fan della Madonna dei Pearl Jam. Chi sono i Pearl Jam? Vattene. Sì, è troppo piccolo per sapere questa cosa. Piccola. Quindi neanche le canzoni, proprio niente avete mai comprato? Ah, no. No, dicevo la fanciulla. Ma io, non che io sappia, poi in realtà se lui ha scaricato qualcosa senza dirmelo può essere. In realtà poi gli guardi il banco, ma te li... Esatto, ti nascosto, scarica di tutto. Quando vai a comprare la pasta, la sua carta di credito è in rosso. Ops! E c'è scritto Activision sulla carta di credito. Ah, è quello? Allora sì, non scherzo. Sì, comunque a me sembra anche un po' strano veramente che evidentemente... vedendo anche i, come si dice, i risultati delle vendite, ma anche i downloadable content di GTA 4 pare non siano stati proprio dei successoni della Madonna, nonostante per un prezzo abbastanza contenuto la parte giocabile sia molto ampia, tipo Gaetoni e lo, però non ha detto che hanno venduto un sacco queste espansioni qua. Hanno venduto un sacco per essere, evidentemente hanno, chi l'ha comprato tutti subito e poi si è fermato il... È arrivato su internet. No, come fa ad arrivare su internet? No, ah già, certo che c'era. È uscito il disco, è vero, è vero. Beh, quello effettivamente, se uno vuole combattere la pirateria con i contenuti scaricabili, poi farli a disco non mi sembra proprio... Eh beh, però è anche vero che magari era un tentativo di insomma, proviamo a venderlo sto gioco. Peraltro sto guardando su VG Charts, che mitico sito, non so mai quanto sia affidabile. Non lo sa nessuno, però ma ascoltavo un podcast di One Up e c'era un tizio di Sega che diceva che i dati, quelli ufficiali NPD, salamadonna, sono in genere un 30% più elevati di quelli che si trovano in giro per i siti, cioè in genere vendono un po' di più rispetto a quello che si legge su queste cose. Comunque no, stavo vedendo che Episode from Liberty City ha fatto 1.150.000 copie secondo la scatola, sì. Vabbè, dai, contro i 7 milioni e mezzo della versione 360 di GTA 4. Però io per esempio, che ho giocato quasi tutto GTA 4, non avevo nessuna voglia di ritornare a Liberty City, perché sì, veramente... no, beh, è chiaro. E poi comunque cioè, è anche passato del tempo e magari la percezione è, vabbè, sì, è sempre lo stesso gioco, la grafica è vecchio, ma che vuoi. Sì, quello sicuramente. Però, oltretutto, secondo me GTA è uno di quei giochi in parte sopravvalutati, dove se lo comprano tutti, io ho compreso, appena esce e poi ci sarà il 5% della gente che lo finisce, perché veramente... Io ne ho due, non le ho finite, nessuno dei due. No, io li ho giocati tutti e ne ho finiti due. Ho finito il GTA 3, il primo, diciamo quello in 3D, e poi ho finito uno per PSP, e basta. Gli altri proprio li ho lasciati a metà perché bellissimi, però dopo un po' non ne puoi più veramente di fare sempre le stesse cose. E sempre al CES invece hanno finalmente iniziato ad arrivare le TV in 3D, i giochi in 3D, la PlayStation verrà patchata con un pezzo del firmware che gli permetterà di leggere dei Blu-ray apposta che avranno il film in 3D, eccetera eccetera. Dobbiamo cambiare televisione, ragazzi, di nuovo, io l'ho comprato 6 mesi fa. Ma per favore. No, mi perché... sta rompendo, l'ho comprato da anni fa. Vedi, è sempre fuori garanzia, ma tu hai, cos'hai? Prima, la volta scorsa il frigo, stavolta la televisione. No, quella è garanzia, questa è fuori garanzia per 15 giorni. Comunque, io la televisione... Ho perso pure la postpay. Come? Ho perso pure la postpay. Per la seconda volta. L'hai persa? Dai, il mese prossimo facciamo lo speciale da Lourdes. Ah, e pure la tessera sanitaria. Se qualcuno le trova, per fare mi può contattare. Ma non è che hai perso il portafoglio? No, il portafoglio c'è. È che erano messo un po' male, quindi mi sono caduto da qualche parte. No, cosa ne pensate di questa nuova frontiera per farci spendere soldi? Io la TV l'ho comprata poco più di un anno e mezzo fa, e di sicuro adesso non ne compro un'altra con quello che ho speso. Ma immagino che adesso sono già uscite le prime TV che supportano il 3D e penso costino più o meno come costavano 2 anni fa le prime TV veramente belle in Full HD. Per cui immagino che se adesso il tipo di persona che 2 anni fa spendeva 2000 euro per comprarsi quella TV si compra questa e c'ha il 3D dentro, fra 2 anni avranno un prezzo abbordabile e a quel punto probabilmente sarà anche lo standard, cioè più o meno tutte le TV prodotte avranno anche quella caratteristica. Però io mi chiedo, se già, per esempio i giochi, se già la maggior parte dei giochi non è full HD nativo ma viene upscalato eccetera eccetera, ma quanta roba sarà in 3D? Cioè, okay. Secondo me ci sarà un sacco di roba tipo Live Arcade, PSN, cioè quel genere di gioco lì che alla fine anche a livello di sviluppo non gli costa molto, penso, farli che supportano il 3D, che avranno l'opzione. Dopodiché io non vedo granché all'orizzonte. Ci sarà molto su PC, perché c'è comunque il supporto Nvidia, con la scheda di Nvidia, magari lì un po' di più. Adesso anche Dark Void, per esempio, lo supporta. Uh-huh. A parte che secondo me Dark Void, dopo un'ora che ci giochi in 3D, ti senti come Gianluigi adesso. Senza poste pay. Esatto. Con la febbre. Però... cioè, secondo me sarà così, sarà una roba graduale che piano poi fra 5 anni qualsiasi plasma o LCD che producono probabilmente supporterà la roba, e magari a quel punto cominciano a fare veramente tanti i viaggi nel tempo, probabilmente ci sarà, esatto, la quarta dimensione. La novità successiva sono la novità successiva è on live, cioè è tutto laggato. Ma Valeria, tu prima dicevi, senza fare spoiler, senza dire cose, che sei andata a vedere Avatar. Sì. Ma l'hai visto in 3D? Sì, 3D, ovvio, certo. E merita? Ma allora, devo dire la verità, io quando sono andata non ci volevo andare, ma sono un po' costretta alla fine. Madonna. E poi in realtà mi è piaciuto. Sì, no, ma l'effetto tecnico, tecnologico. L'effetto tecnico, nei primi 10 minuti, ti prende così tanto che non riesci a seguire il film, in un certo senso, perché è così strano. Ma tu era il primo film che vedevi in 3D? No, non era il primo. Solo che non lo so, è fatto molto bene effettivamente l'effetto 3D. Mm-hmm. E quindi i primi 10 minuti, alla fine ho detto aspetta un attimo, devo seguire che cosa dicono, perché mi stavo concentrando troppo sugli effetti. Però sì, in realtà anche altre persone che l'hanno visto mi hanno detto lo stesso, è capitato. Io ho visto il trailer al cinema lì all'Arcadia a Melzo. Sì. E finito il trailer mi sono accorto che ero a bocca spalancata, ma veramente con degli insetti che giravano, stavo sbavando, infatti ho un po' paura di come sarà vederla all'IMAX, non vorrei avere un collasso. Io stavo sbavando a guardare la versione in full HD su YouTube, fai te. Ma guarda, cioè che è anche solo vederlo lì all'Arcadia è mostruosamente meglio del trailer che avevo visto 18.000 volte sul monitor. E quindi sì, è fatto bene. Cioè, io ci darei questa bella notizia, no? La gente che ha visto Avatar è andata in depressione perché il mondo del film è troppo più bello del mondo in cui vivono. È quello il... Probabilmente sono tutti italiani. Perché... E convivere con la depressione causata dalla consapevolezza che Pandora non è reale. Questa cosa è una tristezza immane. Cioè, adesso mi ritroverò anche quelli che arrivano depressi perché vivono nel mondo normale. Non in... No, non arrivano perché si suicidano prima, capito? Esatto. Oh, sì. No, perché vanno a cercare dei tizi alti 3 metri blu. Ma Cameron, leggevo, che ha creato non solo il film, ma il pianeta, cioè lui ha pensato a tutte le piante e ci sono dei documenti che descrivono come sono fatte le piante, la lingua se l'è inventata da zero, ha chiamato dei linguisti apposta. Sì, sì, sì. Cioè, ma è una roba altro che... Esagerata, dai, però. Però... Penso se finiva un cesso di film, quello che citava lui, secondo me. Che uno usciva e diceva che merda. Cameron è pazzo, anche per fare Titanic aveva comunque fatto delle robe, aveva cominciato si finanziava lui, beh, che i soldi ce li aveva, però sì, cioè... però Titanic effettivamente leggevo che su Wired Titanic è stata proprio una scommessa dove si è giocato pelle, casa, carriera, figli, qualsiasi altra cosa. Qua invece, dato che Titanic ha guadagnato quello che ha guadagnato, cioè si è potuto permettere veramente di tutto. Sì. Ma ricordo che avevo letto un'intervista in cui dicevano che Titanic nei mesi prima dell'uscita ormai i produttori, la critica, davano tutto per scontato che sarebbe stato un flop clamoroso. Sì. E quindi loro si erano messi a vabbè, cerchiamo di finirlo meglio che si riesce a livello di montaggio, post produzione, tanto poi non lo andrà a vedere nessuno alla faccia. Invece devo dire che pure a me è piaciuto, che io pensavo fosse una cazzata. No, dai, Titanic ti è piaciuto? Qua la palla, ragazzi, dai. No, è bellissimo. A me non lo so, sarà Celine Dion che canta, però. Ma tra l'altro anche in Avatar alla fine c'è la canzoncina, no? Sempre di zitto. La canzoncina, su, madonna. Che poi ci dicono che siamo incompetenti che spoileriamo Avatar. Ok, no, credo ci sia una canzone. Ma tra l'altro una settimana fa, venerdì, sono tornato a casa dal lavoro, ho acceso su Sky e c'era tipo giornata James Cameron, su un canale c'era Alien, sull'altro Abyss, poi dopo un po' speciale Avatar, poi c'era Terminator, stavo impazzendo, wow! Sono stato fino alle 4 di notte davanti alla TV. Comunque tutti sanno che Avatar è Kaiser Soze il colpevole nel film, quindi... Sì, e alla fine c'è la testa di Gwyneth Paltrow in una scatola. Molto bene. Ok, abbiamo preso i miei due film preferiti, manca Fight Club, ma non al finale a sorpresa, quindi non si può. No. Ah, è vero. Cioè, no. Sei sicuro che non abbia prima la sorpresa Fight Club? Prima del finale, quella parte. non è proprio l'ultima scena. Capito, però. Vabbè. Giusto per citare qualche ritardo, finalmente la Polifoni, che è quella che fa GT5, anche oggi o ieri, ha detto ah no, doveva uscire a marzo Gran Turismo in Giappone, ci siamo sbagliati, forse qualche mese dopo, e hanno cancellato la data di uscita, posticipandola di qualche mese, e poi gli hanno chiesto, ma non è questo, non è che questa cosa inficerà l'uscita in Europa e in America? E Polifoni ha detto, no no, in Europa e in America è tutta un'altra storia, e ha risposto così. Quindi non lo vedremo mai questo gioco, è impossibile che ci sia, mettiamoci il cuore in pace, anche se a me piaceva l'idea del gioco. Guarda, io il cuore ce l'ho in pace comunque, perché proprio... a voi non frega niente. Non me frega nulla, bro. So. Invece io sto piangendo perché io sono leggenda, c'è il cane che muore. Adesso? Lo stanno andando adesso. E morisse solo il cane. Ah no, no, questa scena qua mi fa troppo bene. Io non l'ho mai visto, io sono leggenda. Ma sei pazzo. E oh, ce l'ho lì sull'hard disk da un po' di tempo. A me non è dispiaciuto, a parte il finale che è un po'... Sì, domani me lo guardo, mi avete fatto venire... Invece l'altra cosa che invece a me fa girare le balle è che Ubisoft ovviamente, dopo aver detto alle 3 dell'anno scorso ah, Splinter Cell esce a settembre, un minuto dopo la fine della conferenza ha detto ah no, esce a marzo, e adesso ma no, esce in estate praticamente. Quindi l'hanno posticipato, no, anche Splinter Cell Conviction, che a me interessava invece. A me no. Che tristezza, mamma mia. No, ci stavo pensando oggi, mi sono reso conto che io ho questo problema con Ubisoft, tutti i giochi che fanno non mi affascinano per niente, non me ne frega nulla. Ma l'ultimo Prince of Persia, Splinter Cell, non ho mai giocato a uno Splinter Cell, ho giocato solo Pandora Tomorrow in multiplayer e basta, non so perché mi fanno sto effetto. L'ultimo gioco Ubisoft che ho giocato veramente gustando è stato Le Sabbie del Tempo, fa un po' te. Minchia, sono passati 10 anni. Per Splinter Cell era un odio proprio così, pensiamo di... A me piaceva, soprattutto le prime episodi, mi è piaciuto parecchio. Ah, forse la storia che è troppo politica, troppo... No, la storia è proprio quella dove, ah, io sono il figo americano, sì, è sempre la solita storia, siamo d'accordo. Vabbè, Tom Clancy, voglio dire. Sì. È troppo noioso. È già tanto che non ci sia lui a bombardare qualche stato povero del pianeta al posto o a sparare sui civili in un aeroporto. Effettivamente è strano che non arrivi da lui quell'idea. Pensa a uno Splinter Cell fatto da quelli di Infinity War. Madonna, sa, con le citazioni, che col protagonista che si ferma, guarda la telecamera e fa la citazione di Dick Cheney. Ma ci sono più psicopatici nei personaggi di videogiochi o nelle persone che costruiscono i videogiochi, secondo voi? No, perché... le persone che costruiscono i videogiochi non sono psicopatici, sono solo dei poveri stronzi. No. Sono dei geni che si fanno dei soldi, altro che... No, secondo me in realtà gli psicopatici sono chi li gioca e gioca, perché tu prendi chi ha fatto, hai presente Silent Hill, Valeria, o comunque non lo so, l'avrò visto, ma i nomi io non li associo. Ma no, giochi horror. È un gioco horror, no? Silent Hill. Cioè, Silent Hill ha veramente gli aspetti, ma che disturbano tantissimo, ci sono dei mostri, ma veramente raccapriccianti, e mi immagino il game designer che dice questo è abbastanza terrificante, potrebbe piacere al ragazzino teenager medio che poi magari la sera ci gioca con le cuffie e si caga sotto, però il giorno dopo va a scuola e dice minchia, ieri ho finito il livello dove si suicida la tipa di Silent Hill, cioè, capisci? No, perché Silent Hill la gente si suicida, cioè tu parli quando di suicidi, non è che parli col tizio di Tom Clancy. Adesso capisco perché l'incidenza di psicosi è aumentata, non è la droga sui videogiochi. Ma se prima hai detto che i video ti smentisci da sola. Sì, adesso capisco molte più cose. Ma però su questa cosa, io continuo a tirar fuori cose che mi sono venute in mente in sti giorni. Avevo molto da fare in sti giorni. Su sta cosa stavo pensando che, per esempio, l'esempio dell'aeroporto di Modern Warfare, cioè quando io ero piccolo, se giocavo al gioco di guerra, era il pupazzetto colorato che sparava i pisellini contro altri pupazzetti colorati che sembravano usciti dai cartoni animati. Poi magari io con l'immaginazione e la suggestione me li facevo strarealistici, ma non lo erano. Adesso giochi a un gioco di guerra e cioè la grafica è fotorealistica. Vai nell'aeroporto, ammazzi i civili, cioè, non lo so, magari l'impatto è un po' diverso sui bambini di oggi, dico. Ma magari lascia poco all'immaginazione, forse, anche o no? Beh, anche se qualche bambino si immaginava di sterminare la gente in un aeroporto guardando quattro pupazzetti dimensionali, li preoccupa, Anche quello c'è ragione tu. Cioè, mi ricordo certi giochi che per immaginare che quello era un omino, cazzo, dovevi proprio essere uno sforzo di fantasia. Dici, ma questo gioco è fighissimo. Lo faceva vedere a uno che non gliene fregava niente e vedeva un impastamento di colori mostruoso. Già oggi vedi certi giochi e, che ne so, il papà, lo zio di turno dice, sì, ma non capisco. Dio buono, come fai a non capire? C'è un uomo che spara un altro uomo e non capisci. Figurati te con due cose bidimensionali, uno verde e uno giallo, che con una lineetta che partiva. Bene, Luigi è morto. Sì, più o meno sì. Vabbè, comunque la cosa dei giochi horror, cioè, vabbè, la stessa roba dei film horror e dei libri, cioè, sì, sì, cagarti sotto, sì, è sì, beh, il brivido, la scossa di adrenalina, nel senso. Sì, però secondo me adesso sì, cioè, veramente c'è un'esagerazione, tipo, un conto è farti cagare sotto, un conto è veramente tipo l'esalogia ormai di Saw. Cioè, è solo tortura, che palle, insomma. Vabbè, ma sono sempre stati così, cioè, se vai a vedere i venerdì 13 sono nove film, uno più brutto dell'altro. Poi lì la puntava meno sullo smudellamento, però comunque non è che fossero sti gran bei film. Sì, no, quello è vero, hai ragione. Tra l'altro venerdì 13 è l'unica serie in cui pure il primo è brutto, quindi... Madonna, sono bruttissimi i film. A me piaceva Nightmare, la serie di Nightmare. Sì. Comunque, allora, adesso velocemente andiamo avanti in una fantastica nuova rubrica che si chiama Correva l'anno. Festosamente accolto a Civita Castellana, il principe di Piemonte inaugura nelle luminose arcate del Forte San Gallo la mostra della ceramica artistica e industriale. Allora, questa nuova rubrica che ci siamo inventati 8 ore fa, credo, va un po' a sviscerare. Scegliamo un anno del passato, andiamo a cercare di capire cos'è uscito quell'anno e se, insomma, se è uscita cosa roba interessante, se si può rapportare ai giorni d'oggi. E oggi abbiamo scelto l'anno dell'attacco alle Torri Gemelle, perché noi siamo veramente simpaticissimi, a parte gli scherzi, il 2001, che appunto purtroppo rimarrà tristemente noto per questo evento. Però scorrendo, come giustamente mi ha fatto notare Andrea qualche giorno fa, Pensavo l'aveste scelto per 2001 Odissea nello spazio, invece no. Questa cosa ti fa onore, Valeria, veramente, non ci ho pensato. Facevate più bella figura. Ovviamente abbiamo scelto 2001 per Odissea 2001, questo è più che palese. Minuto fa non ricordavo neanche esistesse come film, guarda. Madonna mia. Una che non sa neanche cosa sai, uno che non si è il film dei Pearl Jam. Cioè, di Vedder nello spazio. Va bene, allora invece, caro Andrea, mi facevi notare che, a parte Harry Potter e la pietra filosofale, però, in quell'anno lì è uscita roba come Ikaruga, come Halo, come, fammi vedere, il primo Burnout, cacchio, Ico, insomma. Devil May Cry, GT3, GTA3. Operation Flashpoint, però l'espansione. Cold Max Payne, Shenmue 2... Penso che siamo tutti d'accordo con il migliore Max Payne. Tra quelli che abbiamo citato, a me piaceva anche Ikaruga, era un po' diverso. Max Payne era... Il primo, Max Payne. Sì, il primo. Guarda, c'era anche Black and White che è uscito nel 2001. Ah. Sì. Cioè, no, nel senso, il mio discorso era, si dice tanto che adesso la qualità media dei giochi è mostruosa e pazzesca, un tempo non era così, poi vai a vedere, e 10 anni fa c'era un'annata del genere, dove ci saranno almeno 10 capolavori. Sì, sì, assolutamente. C'era anche Rez che ne ha cagato in 4, però... Sì, Conker, altro gioco che ha cagato in 4, ma era bellissimo. Era Onimusha, vedo, ma dimmi te, ma che annata fichissima. C'è da dire, siamo sinceri, che molti quell'anno lì non sono arrivati da noi perché Halo era l'anno di uscita dell'Xbox a novembre, quindi se lo sono giocati gli americani da marzo. Però, tutto tecnicamente, insomma, è uscito quell'anno. C'era anche il Final Fantasy X, che esatto. Io ci ho giocato per 5 minuti e l'ho ridato al negoziante. Sì, no, poi se abbassiamo un po', cioè, per dire Project Zero, anche comunque era un gran bel gioco. Sì, esatto, delle macchine fotografiche. Sì, dove fotografavi... Ghost Recon. Eccolo qua, il mio preferito, però... 13 novembre 2001. Ma ripeto che Max Payne ha segnato... Ma Max Payne, cosa ti è piaciuta? La storia? Non la storia, intanto i toni in generale del gioco, no? Poi quella cosa del bullet time, da allora l'hanno usato praticamente un bordello di giochi, guarda. È uscito Matrix al cinema, quindi... Beh, ovvio che l'ha preso da lì. Però... Sì, no, nel mondo dei videogiochi l'ha immesso Max Payne, sono d'accordo. No, poi, scusate, è l'anno di Zero Comico, il gioco di Aldo Giovanni e Giacomo. Che cazzo è sta roba? Un gioco di merda di Aldo Giovanni e Giacomo. Ma veramente l'avevano fatto? Sì. E come funzionava, scusate? Questa è una bella domanda, credo. Allora, è un'avventura grafica. È un'avventura grafica, era raccapricciante vedere l'immagine, veramente. C'è roba neanche di Dylan Dog hanno fatto. Tra l'altro l'immagine del livello ispirato a Monkey Island. Va bene, comunque, a parte queste cazzate... Sono usciti i due Zelda per Game Boy Color nel 2000. Cioè, ma che cazzo di anno era? Sono d'accordo che... Il 2001, guarda. C'era un Castlevania anche, forse era il primo per Game Advance che secondo me è bellissimo. Però c'era il capolavoro Alone in the Dark, The New Nightmare. Advance Wars. Sì, c'era Advance Wars. Però Alone in the Dark, New Nightmare, io lo son comprato e una merda totale. C'è GTA 3. Sai, ci siamo dimenticati questo. No, l'ho detto prima, GTA 3 e GT3, sì. GTA 3 me lo... C'era anche Golden Sun. Scusa, ma c'è un Metal Gear Solid 2 qua, vedo, no? È vero. Ma il 2001, il 2001 caga in testa a quest'anno e all'anno Diablo, scorso messi assieme. Diablo 2, eh? No, vabbè, ma quelli erano... No, vai giù, sono quelli videogiochi distribuiti. Crash Bandicoot... È il terzo squad è Wrath of Cortex, no? C'era il primo PES, oserei dire, eh? Quello chiamato PES. Sì, che in realtà non è che fosse bellissimo il primo, però... No, non è. C'è Topolino e Mini Salvaguai. No, poi c'era... Questo mi era sfuggito, non c'è neanche un'immagine. Va bene, comunque sì, comunque sono d'accordo. Quest'anno qua caga in testa a molte annate recenti che noi consideriamo la cosa più figa del mondo. Ho letto, era il mio gioco preferito, quindi effettivamente quest'anno è il migliore in assoluto. Qual è? Legacy of Kain Survivor 2. Ah già, è vero che ne abbiamo discusso. Il tuo amato. Concordi sì, che è l'anno più bello del mondo di tu dei giustamente, sì. Comunque sto guardando il 2002, eppure quello non si butta. Cioè, era comunque un bel prossima puntata. Prossima puntata, no, sì, possiamo no, però, per dire... a caso. Il 1478. Tra l'altro, chiudiamo con questo. Sì. È l'anno, vedo, il 2001, in cui è uscito in Giappone il primo Phoenix Wright. Poi da noi è arrivato nel 2006. Impressionante questa cosa, impressionante veramente. Che roba, ma noi siamo indietro anche di Layton di 2 o 3 episodi, mi pare, sì. Oggi come oggi. Va bene, ok, qua chiuderei questo momento a Marcord, che è stato praticamente un citare giochi dall'inizio alla fine, solo che il 2001 era una figata e adesso ce la tiriamo. Valeria, tu nel 2001 cosa facevi? Era ancora tristemente in Italia Sì, è vero, ero ancora in Italia, oddio. Boh, non mi ricordo neanche più cosa facevo, sinceramente. Giocavo 15 anni. Giocavi con l'Atari 800, va bene. C'avevo la... Ce l'aveva l'Atari 800, eh? 800 XL, bellissimo, me l'avevano regalato per la prima comunione. E tu l'hai messo in soffitta dicendo questa fioriera non capisco cosa serve. No, ci avevo giocato un casino. Bene, bene. No, nel 2001 cominciavo a lavorare su PSM e il mio capo di allora, vaffanculo Antonio, non riesci? mi faceva recensire tutta la peggio merda che usciva su PS2. E PS1. Ringrazio che non hai recensito Topolino e Mini Salvaguai. O zero comico. Effettivamente dopo la peggio merda non me l'ha fatta recensire. Ma zero comico mi sa che era solo per PC. Questo mi ha salvato. Meno male. Va bene, qua chiudiamo questa pagina del Correva l'anno. E che cazzo passiamo? Giochi giocati, ti ringrazio Gianluigi. Prepare to qualify. Vai Gianluigi. Allora, ho giocato tra uno studio e l'altro, tra un 26 e l'altro. Grande, applausi. Applausi. Grazie, grazie. Potevo prendere pure di più, eh. Vabbè, dai, insomma. Quindi ho giocato Dragon Age, dato che mi sono fatto pure il PC nuovo, pure qui applausi. Quello non è merito tuo, comunque applausi. È come parlavamo, cioè di quello che parlavamo prima, lo confermo appunto che è praticamente sempre il solito gioco BioWare, però è un gioco che mi piace tantissimo. La storia, mi aspettavo qualcosina di più forse. La grafica, sì, aveva ragione Andrea, è un pochettino vecchiotta. Che versione hai giocato? PC, ok, sì, scusate. Non mi è durato neanche così tanto. Ecco, volevo chiederti questo, ma tu quanto ci hai giocato per finirlo in così? Guarda, ci avrò giocato, di solito giocavo la notte, quindi vedi tu dalle 3 fino alle 4 e mezza. Vabbè, no, che 3 no, insomma. Dall'1 fino alle 4 e mezza. E ci ho giocato per una settimana, quindi vedi tu. Beh, ma immagino non avrai fatto tantissime side quest... Me ne mancavano 3 alla fine. Cioè, se no c'erano. Io una cosa che leggevo in giro è che sono interminabili dungeon, tipo. Non sì, finisco mai. Sì, sono abbastanza lunghi. Pure ripetitivi. Però vabbè, è il gioco. Invece sì, mi ha ricordato tantissimo un altro gioco che ho giocato un po' fa che era Drakensang. Dragonsang, questo è il genere. L'ho pure recensito, che è identico praticamente. Infatti penso che dovrebbero accusarli di plagio. Sì. Stiamo smontando. Poi ho giocato Borderlands. Ma guarda, all'inizio non mi sembrava tutto questo gran gioco. Invece adesso mi ha preso, sono arrivato pure a livello 21. Sì, ti prende piano, nel senso, a un certo punto scatta qualcosa e dici, beh, però quando prendi quella cazzo di specie di macchina con... Da là incominci, perché tanto non ti devi fare più quelle cose interminabili tipo Fallout che ci mettevi 20 anni per arrivare da un punto all'altro. Sì, ah sì sì, beh, sì, all'inizio che devi comunque sempre combattere, sempre camminare, sì sì sì, sì, sì. In generale mi piace la varietà di armi che c'è. C'è ancora qualcosa che non mi convince. Tu che non sei molto addetto, cioè non ti piacciono molto gli FPS che... Però mi piace la cosa dell'avanzare di livello con le skill, mm-hmm. Queste cose mi piacciono. Poi brevemente, oggi ho iniziato Assassin's Creed 2, che stranamente nessuno dei tre ha giocato quando è uscito, cioè, credo. Ho fatto un'oretta di gioco, ma mi piace. Io c'ho l'antipatia a Ubisoft, quindi. Già, è vero. Però, sai, neanche io mi aspettavo fosse un gioco tipo. Ho giocato due orette al primo e mi aveva già rotto proprio le palle in una maniera impressionante. Invece, questo qui già mi prende. Tecnicamente, com'è? Chi l'aveva paragonato ad Uncharted 2, secondo me sbaglia tutto. Si droga. Già dalla qualità dei personaggi. Mm-hmm. Poi, pure se tu vedi, la cosa che mi era piaciuta molto in Uncharted 2 erano i movimenti facciali, le espressioni, mm-hmm. Mentre qui, diciamo, secondo me lascia abbastanza a desiderare da questo punto di vista. E poi pure i movimenti, non lo so, saltare, a parte che è una cazzata enorme saltare da un palazzo all'altro, no, di questo genere, cioè schiacci un pulsante e fa tutto, tipo Prototype. Sì, vabbè, comunque ancora sono all'inizio, quindi vediamo, magari il prossimo mese ne parlo meglio. Ho giocato brevemente ancora a Prototype, ho fatto mezz'oretta e mi sono già rotto le palle. Mi era piaciuto tanto. Quindi davo ragione al buon Vito che diceva che ti diverte per i primi 10 minuti. Proprio 10 minuti contati, poi sei rotto i coglioni. Sì, perché alla fine che gioco è? È un massacro. Arrivi in un punto e incominci a schiacciare sempre il tasto dell'attacco e ammazzi tutto. Certo, ma difatti noi videogiocatori siamo fatti così, ammazziamo tutto. Ma non lo so, e poi quando salti da un palazzo all'altro pure là, sempre tenendo premuto un tasto, incominci a correre e salire dovunque. Boh, non so, non ci vedo tutta questa gran... Cioè, anche le parti delle missioni stealth non servono a nulla. Le fai stealth o non le fai stealth è la stessa cosa, perché arrivi là, spacchi tutto, quindi... È bilanciato male, comunque. A me era piaciuto tanto, ma... Poi ho iniziato pure Modern Warfare 2, però l'ho proprio... Cioè, tu hai preso 26, è un miracolo che hai preso... infatti, no, aspetta, parliamone bene di questa cosa qui. Praticamente, il ragazzo che è andato prima di me, che ha preso 27, l'ha preso grazie a quello che gli ho spiegato io. Bastardo. Gli avevo spiegato meglio del professore, lui ha preso 27. Se lui chiedeva, il professore chiedeva quelle cose, le stesse cose che ha chiesto a lui, a me prendeva almeno 30. Almeno. Invece mi ha chiesto la cosa che sapevo proprio di meno, proprio quella parte che avevo toccato di meno, me l'ha chiesto. Quello è un classico, purtroppo. Ci abbiamo convissuto tutti. Valeria, tutto a posto? Normale che uno giochi dalle 1 alle 4 e mezza del mattino, tutte le notti, tutto sotto controllo? Non ne ho lezioni. Ah, ho iniziato pure Mass Effect. Però ieri. Magari sì. Qualche problema di insonnia, che cos'è questo? Dormire la notte. Ok. Sì, va bene. Bene, guarda che questa ci mette 10 secondi a iniettarti della pricepotomazina 20cc, no? Ma sono un po' lontana. Già, è vero. Peraltro Gianluigi sta in Sicilia, quindi sei molto... Che non ha nessuna intenzione di andare in Inghilterra, perché ho paura dell'aereo. Avendo lei i poteri di Baionetta, esatto. Materializzare una siringa. Ma piuttosto, tanto ormai stiamo sparando cazzate. Come posso sconfiggere la paura di volare? Beh, seriamente o... No, seriamente, sì, ho una paura folle. Ma potresti, magari, non lo so, vabbè, le fobie, terapia cognitivo-comportamentale, quindi devi prendere l'aereo, drogarti. L'ha preso, però non mi basta. A piangere, ma posso chiederti una cosa, Gianluigi? Perché anch'io avevo problema di aereo fino a qualche tempo fa. Ma tu hai paura di cadere o di rimanere chiuso? Cioè, nel senso, è più claustrofobia o più cadere? Cadere. Ma no, devi semplicemente continuare a prenderlo il più possibile. Finché non muoio. Cioè, più lo prendo, più possibilità di cadere, no? Sì, o cade, certo. O ti viene un attacco di cuore, o ti passa la paura. Ma è... No, ubriacati e non ci pensi. Come Mr. T nell'A-Team, ti droghi. Ti droghi, ti addormenti e... No, comunque io ho notato che anch'io avevo qualche problema tecnico, però prendendolo molto spesso, dopo un po' non ci fai proprio più un cazzo, niente. E più volte lo prendi, più possibilità veramente di morire. Che qual no, era? Figura. Madonna. Va bene. Tra l'altro, già che stiamo cazzeggiando, l'ottimismo proprio. Visto che hai citato Late Team, hai visto il trailer del film? Non ancora, c'è già il trailer. Sì. Cazzo, è allucinante. Per quanto va a cagare, sono con un carro armato su un aereo, gli fanno esplodere l'aereo, questi cascano col carro armato e dal carro armato si mettono a sparare a quelli che li hanno abbattuti mentre stanno cadendo. È una roba completamente assurda. No, adesso finita la puntata andrò sicuramente a vedermi questa cosa dopo aver visto per la centesima volta il video, il trailer in HD di Avatar. Vabbè, ormai ormai in 3G anche esatto, è... l'ho visto talmente tante volte che le retine se le sono imparate a memoria. Vai Andrea, vai con i giochi giocati. Allora, io ho giocato Darksiders. Che è bellissimo il fatto che invece di fare come Dante's Inferno, che hanno copiato solo da God of War, questi hanno copiato da tutti i giochi. Tutto, cioè, hanno fatto. Beh, la base è God of War e un po' di Zelda, ci sono i dungeon con tutti gli enigmi molto più complessi rispetto al normale God of War. Mm-hmm. Però dentro c'è di tutto, c'è Half-Life, Portal, Panzer Dragon, Shadow of the Colossus, qualsiasi cosa ti venga in mente ce l'hanno messa. È proprio tipo, non lo so, noi sono 20 anni che giochiamo con i videogiochi, ci siamo appuntati tutte le figate. Adesso abbiamo fatto un po' se sono appuntati veramente le figate, è una figata. Insomma. Ma infatti questo è un pregio, perché comunque è pieno di cose belle, è vario, fino alla fine ti dà sempre cose nuove da fare. Mi è durato un po' più di 12 ore, leggo nelle recensioni 14-16, per cui suppongo possa durare anche di più, e fino alla fine non mi sono mai rotto le balle, perché c'era sempre qualcosa di nuovo da fare. Di contro ci mette un po' a ingranare, proprio perché ti sblocca le cose, è tipo Zelda. Ogni dungeon ti dà un'abilità nuova che devi imparare a usare assieme alle altre, solo che all'inizio, siccome non hai nessuna abilità, all'inizio è veramente God of War, ma è un God of War, è il fratello scemo di God of War, perché poi il sistema di combattimento non è che sia così bello, per cui devi tenere un po' duro. Quando arrivi ad aver sbloccato un po' di cose, diventa molto divertente, gli enigmi e i dungeon sono molto belli, e a parte questo fatto che sa un pochino di già visto, è molto... Ecco, una novità, se vogliamo, è che c'è il sistema di lock sul bersaglio tipo Zelda, però in un gioco alla God of War, che è una cosa che non si usa molto. E secondo me funziona anche abbastanza bene. E poi mi pare che abbia anche un design di un fumettista. Sì, è Madureira, che è uno che aveva avuto successo a metà anni 90, poi siccome... Ma cioè, è vero, siccome giocava troppo con i videogiochi, non riusciva a essere puntuale nelle consegne, aveva fatto la sua serie in... Non lo so, una roba tipo in 6 o 7 anni ha fatto... 5 numeri, una cosa del genere, e ha detto vabbè, facciamo che li sviluppo i videogiochi, che magari almeno ci posso giocare gratis. Esatto, ci è riuscito, non gli è venuto neanche male. Okay. Tutto sommato, non è tecnicamente, non è proprio perfetto, c'ha un sacco di tearing, qualche scatto, rallentamento, però insomma. E poi ho giocato Murder Files, che è questa specie di professor Layton che la butta un po' più semplice come puzzle, ed è il giallo alla Agatha Christie, che si prende molto in giro, la butta sul ridere, è pensato per i multiplayer, perché poi è fatto da quelli di... Su cosa l'hai giocato questo? È su PlayStation 3, ed è il gioco di PlayStation Network, ed è un gioco a episodi, saranno, se non sbaglio, 6 episodi, sono usciti i primi 2, costano... 8 euro l'uno, ma se li compri assieme costa 13, per cui insomma conviene. Ed è carino. Aspetta, non ho capito. Sono 8, quanti episodi hai detto? Allora, sono 6 episodi, sono usciti solo i primi 2. Uno costa 7,99€, 2 assieme costano 12,99€. Ah, quindi... tu assieme, pensavo 6 assieme, dai, dici, no, chi è quel E niente, vabbè, praticamente ogni episodio è diviso in pezzetti, ogni pezzetto c'è un po' di storia e poi un puzzle da risolvere, e se giochi in multiplayer li fai uno a testa. Poi ci sono le domande sugli indizi che hai trovato guardando le storie, alla fine devi indicare il colpevole basandoti sul raccontino. Ed è carino, l'unica cosa che c'ha un po' lo stesso carisma di Buzz, quindi molto poco, e quando prova a far ridere non sempre è davvero divertente, anche se secondo me cresce, il secondo episodio è molto più bello del primo, è più divertente, sono più belli gli enigmi, quindi magari poi andando avanti migliora anche. Una cosa strana è che non l'hanno né doppiato in italiano né neanche sottotitolato, è tutto in inglese e basta. che è bello perché il doppiatore inglese è un fenomeno, c'è un doppiatore solo che fa tutti i personaggi, maschi, femmine, cambia l'accento, cambia la voce, è bellissimo, è una cosa che fa più ridere, però obiettivamente uno che non sa l'inglese è un po' un problema, anche perché qualche puzzle devi risolverlo ascoltando la voce che ti dà le indicazioni. Sì, può essere complicato, diciamo. Infatti sì. Invece io, dato che sono stato poco a casa durante le feste natalizie, ho giocato un po' di roba mobile e velocemente, il primo che ho giocato è un gioco per iPhone che adesso mi pare che costi 5,49 euro, si chiama Nova, casualmente ha quattro lettere come Halo, è proprio un caso perché è un clone spudorato della Gameloft ma è una roba con gli stessi ambienti sia esterni che interni, proprio un plagio aberrante, però devo dire che è un gioco monotono, lineare, tutto quello che volete, però il resto se copia da Halo deve essere anche monotono, quindi... ecco, vattene, grazie. Però tra parentesi, Valeria ha giocato ad Halo, quindi sa di cosa sto parlando. Sì, dopodiché mi sono sognata l'esercito della morte. L'esercito della morte, cioè, ma avete fatto giocare, sono rimasta evidentemente scioccata, ho fatto degli incubi allucinanti quella notte. Vabbè, comunque. Grazie Davide. Comunque è uno sparatutto in prima persona per iPhone, molto, con una grafica molto molto molto bella, è lineare, non c'è dubbio, difatti appunto è molto Halo, però secondo me per 5,49 euro, se uno piacciono gli FPS, oltretutto i controlli sono quelli migliori fino adesso trovati per un first person shooter su iPhone, e quindi lo consiglio perché è molto divertente, è anche abbastanza lungo per il prezzo che è. Invece no, intanto Gianluigi va a prendersi i vinci. Ma è colpa di Nova, tra parentesi Nova è l'acronimo tipo di Near Orbital Vanguard, come ODST, proprio dei geni, sono riuscito a copiare anche l'acronimo. Comunque nella mia follia di soprattutto in prima persona ho giocato anche e sto giocando a Modern Warfare Mobilized, che è la versione diciamo per Nintendo DS di Modern Warfare 2, e devo dire che è un gran bel gioco, sempre un po' complicato come comandi, però tecnicamente hanno tirato fuori della grafica dal DS che ben pochi si possono permettere. Ci sono le sezioni, allora è un soprattutto in prima persona, ci sono le sezioni sull'elicottero, ci sono le sezioni dall'aereo, quella visuale tutta in bianco e nero dove si tirano solo le bombe ai nemici. Devo dire che mi sta divertendo, certo non è come la versione da casa, però se uno ha un DS e si è sbagliato perché voleva comprare la PSP, ci sono anche dei giochi un po' divertenti per DS dove si spara della gente. E finisco con Assassin's Creed Discovery, in realtà è un gioco per DSi che è compatibile anche per DS. Non vorrei spoilerare qua perché parlando del gioco si capisce come finisce Assassin's Creed 2, quindi non lo dico, perché sono anche astuti questi qua. Però comunque è un platform molto alla Prince of Persia vecchia maniera, vecchia, bidimensionale, anche se tutta la grafica è tridimensionale, ovvero c'è l'effetto prospettiva con lo sfondo della città che si muove in parallasse. La storia è molto carina, secondo me è ben fatto, l'unica cosa è che per quello che costa, perché costa 30 e passa euro, adesso è la versione americana ma uscirà tra poco anche quella italiana e costerà quella cifra lì, mi sembra veramente troppo caro perché dura pochissimo, io in 3 giorni l'ho finito, dopo 3-4 giorni. Quindi... Stiamo parlando di un gioco per DS. Sì, no, il fatto è che lo stesso gioco... sappiamo benissimo quanti li comprano veramente i giochi per DS. Sono d'accordo, però per esempio lo stesso gioco per iPhone, che sappiamo anche quanta gente gioca con la roba che compra per iPhone, costerà 5,40 euro o 7 al massimo. Quindi... succede spesso questa cosa che su iPhone... No, che su iPhone lo stesso gioco per DS costa 10 volte di meno. Esatto, sì. Ma addirittura, adesso se non sbaglio, un gioco di guida dello sviluppatore di Nova, esatto, che era uscito su iPhone e costava, non so, 5 euro, e anzi, era stato scontato a una melanzana e due sputi, e poi è uscito su DSWare, quindi da scaricare, e costava 8 euro. Sì, sì, era Asphalt, uno dei tanti episodi di Asphalt. Esatto, sì, che sì. Vabbè, è assurdo. Sì, sì, concordo. Ma difatti questa cosa non la capisco, però è evidente che, cioè, se uno, a parte che vabbè, se uno se vuole scaricare per DS si riscarica, non c'è proprio problema, però se tengono dei prezzi del genere è ovvio che magari puoi farlo con, che ne so, Giulia passione cavalli da corsa, perché la bambina, la ragazzina vuole comprare il gioco di Giulia, la mamma glielo compra anche costasse 40 euro, però io di sicuro... Vabbè, mamma stupida. Guarda che adesso faccio un breve parentesi, una volta ero alla FNAC a Torino e c'era un bambino che avrà avuto 4 anni, 4 e non 18, con una mamma tutta tiratina, fighetta, e il bambino indicava i giochi per 3,60 e la mamma diceva no, quello l'abbiamo preso l'altra settimana, scegline un altro, bambino di 4-5 anni. Cioè, poi come cazzo ti cresce uno così? Però qua non voglio fare moralista, visto che mi toccherà testare la stessa cosa tra poco. Io a 6 anni giocavo con i pupazzetti che sparavano i pisellini. Ken, no? Quando schiacci il tasto dietro. Qua passerei alla penultima rubrica di questa puntata, ovvero al consiglio del tentacolo. Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate, fermi tutti? In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, La corazzata Potëmkin. Vai, vai Gianluigi, vai col, allora, film, col film strappalacrime, vai. Madonna mia, allora sì, ho visto Hachiko, chi non sapesse la storia di questo cane che era affezionatissimo al padrone e ogni volta lo aspettava, ovviamente il padrone era un professore universitario, pendolare, e ogni volta che tornava a casa con questo treno, lui, il cane era lì ad aspettarlo. Poi questo... padrone qua muore durante uno di questi viaggi, però il cane che continuerà ad aspettarlo così per 10 anni, sempre ogni giorno. Sì, ma infatti... il film è ambientato in, cioè, perché c'è Richard Gere, è ambientato in America, la leggenda, okay. Invece la leggenda, te, ma la storia è ambientata, la storia è Giappone, sì, perché c'è proprio, sì, c'è la statua lì in piazza, sì, esatto, in Giappone, tra l'altro. Su Hachiko, su un blog che seguo, c'è scritto Hachiko, un film con Richard Gere in cui uno dei protagonisti è un cane e l'altro si chiama Hachiko. Madonna. No, non è vero, è un bel film. Io ho pianto dall'inizio alla fine. Anche quando era vivo il tizio, piangevi? Sì, perché ci sono delle scene che fanno piangere. A me, vabbè, con i cani, insomma, se sì, sei un minimo... sensibile. E io ho un cane, quindi... Sì, ciao, è finita. Ti fottono facile. Poi... ho visto anche Up, della Pixar, e penso veramente che la Pixar non sbaglia mai un colpo. Sono veramente, è bellissimo, l'ho visto Up anch'io, è bellissimo, uno dei migliori della Pixar. Sì, a parte la prima parte veramente mette una tristezza impressionante, ho pianto pure là ovviamente. Beh, su Up pure io ho ceduto, l'ammetto. La prima parte, no? Ma quello col vecchietto. La prima parte, ma devo dire anche verso la fine, quando si mette a sfogliare l'album di fotografie. Sì. Ecco, dice che anche siete sensibili, ragazzi. Che c'è anche Kaiser Son. Io più con i cartoni animati sono una femminuccia. Tutta la roba della Disney mi ammazza. Io Wall-E ho pianto come... Non so. Mamma mia, quello è pure bellissimo. Effettivamente lì mi sono commosso anch'io, devo essere sincero. Non sono arrivato a piangere, però Magone mi è venuto. Veramente bello, lo consiglio caldamente. Poi... prima dell'esame, penso, la notte prima dell'esame, ho visto un film che si chiama Land of Lost. Ah. Questo effettivamente non so se consigliarlo oppure no. Parla, diciamo, di un universo parallelo dove ci sono i dinosauri e questo disco qua va a finire in questo universo. Simpatico, fa ridere un pochettino. Ci sono effetti speciali, un film di fantascienza? Sì, più o meno sì. È un film comico comunque, no? Sì, è comico. Andrea, dici... Allora, sì, io ho visto ieri questo Ben X, film belga di 2 anni fa, che da noi è uscito a dicembre, ma in realtà è del 2007, se non sbaglio, ed è un film su un ragazzo che ha la sindrome di Asperger, se non sbaglio, insomma è autistico, è Rain Man. No. Non è la stessa cosa. Vabbè, da vedere, cioè, per come recita il personaggio, sembra Dustin Hoffman, poi immagino che... è il grandissimo Tobey Maguire di Spider-Man. No, ma vai, è un film belga, no? Non c'è lui. Il film è bellino, c'è una bella atmosfera, è anche abbastanza commovente, a parte il finale che non mi è piaciuto. Ma la cosa bella è che questo qua siccome ovviamente c'ha i compagni di classe che gli fanno gli attribullismo e vive una vita insopportabile, si rifugia in un gioco di ruolo online che tra l'altro è Archlord, cioè un gioco vero, non si è cagato nessuno, io non sapevo neanche esistesse, sono andato a controllare, ho visto che non ha avuto un gran successo, e la cosa bella è che comunque nel film non è che sia demonizzato il gioco, è semplicemente questa cosa in cui lui trova un modo per distrarsi, conosce una ragazza e via dicendo, e il gioco viene usato nel film perché, a parte che i titoli di testa sono i nomi degli attori che appaiono dentro i menu del gioco, è tutta una roba mescolata, le immagini, e poi lui, la sua vita normale se la vede sempre come metafora di quello che succede nel gioco, per cui quando la mattina si sistema i capelli allo specchio, si immagina l'inventario che sta sistemando gli oggettini, oppure quando arrivano i bulli che lo vogliono picchiare, lui si immagina i troll che vengono a cercare di uccidere, questo tipo di situazione qua. Però è bello, è fatto bene, ti fa vedere il suo punto di vista molto, lavora molto sull'audio, su come lui sente le voci, la roba che gli interessa, quella che non gli interessa, parla lui nella sua testa invece di stare... È interessante, a parte questa bora che ogni tanto... Valeria, tu stai prendendo nota che questo film lo devi vedere per motivi professionali. Quindi vale come film oppure no? Sì, ripeto, a parte la parte finale non mi è piaciuta, però secondo me merita di essere visto. Poi una volta che c'è un film dove c'è un personaggio che si ammazza di videogiochi, eppure la cosa non è messa in cattiva luce. Beh, insomma, poveraccio, non è proprio... va bene, ok. Non... Io dimenticato un film che avevo visto, tra l'altro. Bastardi senza gloria. Sì, allora, anche un fumetto, si chiama Pasolini, di Davide Toffolo, che è un fumettista italiano che suona anche in un gruppo che si chiama I Tre Allegri Ragazzi Morti. Ah, carini. Sono un po' conosciuti, insomma. E praticamente in questo fumetto, non è una biografia di Pasolini, ma è lui, Toffolo, proprio, cioè nel fumetto, e va... si immagina di intervistare questo tizio che sostiene di essere Pasolini, quindi ancora vivo, e non si capisce mai se è un sose, uno spirito o qualcosa. La cosa carina è che l'intervista è fatta, Pasolini nel fumetto parla usando sempre cose che ha scritto, dichiarazioni che ha fatto in interviste, cose del genere, messe assieme per fare dei dialoghi con lui, e quindi è comunque interessante e secondo me è carino sia per chi conosce bene Pasolini, perché comunque è bello il modo in cui è fatto, sia perché non ne sa nulla, perché è un po' uno sguardo sul suo pensiero, sulle cose che diceva, senza aver la pretesa di essere completo e esaustivo. Mm-hmm. Ed è molto bello anche come disegni. Invece io volevo consigliare un libro uscito nel 2006, che però è abbastanza attuale come tema, ovvero si intitola Il mercato della paura, è scritto da due giornalisti di Repubblica, e il sottotitolo è La guerra del terrorismo islamico nel grande inganno italiano. E qua, insomma, un po' di fantapolitica, ma non senza fanta, ma un bel po' di intrighi e cose simpatiche che sono capitate. Vabbè, è politica italiana, quindi è fantapolitica. Quindi è fantapolitica. Purtroppo qua questi due giornalisti che hanno fatto un'inchiesta particolarmente approfondita, raccontano in questo libro come un sacco di, come dire, falsi allarmi o comunque allarmismi dal 2003, 2004, 2005 in Italia erano costruiti ad arte, parlano del rapimento di Abu Omar qua a Milano di qualche anno fa e parlano anche di come sono state fabbricate le notizie che hanno giustificato nel 2003 l'invasione dell'Iraq. È un libro che si legge tutto d'un fiato perché è scritto benissimo e che però lascia veramente inquietante, insomma, è inquietante perché ti rendi conto che quattro minchioni riescono a spostare il punto di vista di una nazione. Quindi io lo consiglio, Il mercato della paura, penso che si trovi a pochissimo prezzo, perché l'ho comprato nel 2006 quando è uscito, però... insomma, bello, molto bello, molto bello. Valeria, hai trovato qualcosa di cui parlare o no? Ma sì, no, vabbè, ho visto un film, ma non so se è uscito in Italia, che si intitolava Away We Go. È un film diretto da Sam Mendes ed è molto carino. No, non è uscito. L'hai visto tu? Ma... no, non l'ho visto, però cioè, tipo, ne avevo letto qualcosa e so che non è ancora uscito. È molto carino, riguarda una coppia di, insomma, giovani. Lei aspetta un figlio e è una commedia divertente, praticamente cercano un posto in America dove andare a crescere il loro figlio praticamente, ed è un film per, non lo so, gente che si sente magari un po' fuori dagli schemi dell'ordinaria società e, per cui quando le cose non sono ancora completamente chiare, se vi sentite persi, allora secondo me vi ritroverete nel film. È molto carino, secondo me è un po' più allegro del precedente Revolutionary Road. Non l'avevo visto quello. Revolutionary Road, io ho letto anche il libro, è veramente... mi è piaciuto tantissimo, però è un'angoscia. No, questo è molto leggero in realtà come film. Anzi, ti fa uscire con una bella sensazione, secondo me, poi dal cinema. Mentre lo descrivi, sono andato a vedere su Internet Movie Database ed è tipo uscito in tutto il mondo, ma tutto, in Italia non è neanche prevista la data d'uscita. Siamo veramente, da sotto questo punto di vista e sotto anche tanti altri, siamo veramente la merda, mamma mia. Basti pensare che noi siamo l'ultimo paese di quelli, diciamo, tra i più civilizzati del mondo dove esce Avatar, perché dovevano far spazio a De Sica e company, eh. Ce l'hanno spostato per quello, alla fine, l'uscita di Avatar. Pure Cigo. Pure quello hanno fatto. Sono spostato a fine dicembre per non far... Ma in realtà, secondo me, la cosa ancora più deprimente è che non è che è per lasciare spazio a loro, è per paura del film di The Sea. Ah, sì, per quello, perché sennò annichilivano, cioè, nessuno andava a vedere Avatar, figurati. Ma dai, veramente. Però fanno la guerra. Sì, comunque, non so quali siano i paesi non civilizzati da cui esce dopo di noi, ma io sto guardando e noi usciamo per ultimi un giorno dopo la Georgia. Cioè, il Pakistan è uscito il 1 gennaio. Va bene. Il Kazakistan è uscito il 18 dicembre. Cioè, dire che ancora il film di De Sica c'è, no? Quindi potrebbero un ripensamento dell'ultimo momento. Tipo, ma... è in Kamchatka con i tre carri armati. Non credo. No, non è contemporaneo. Va bene. Chiudiamo qui il momento. Vabbè, la prossima volta si va in Kazakistan. Ovviamente, in 3D. E adesso passiamo alla posta del tentacolo. Con due mail che ci sono arrivate giuste giuste, una un po' più giusta dell'altra. You've got mail, baby, yeah! Sono arrivate due mail, in realtà ne è arrivata una sola, perché una era arrivata per la puntata scorsa, ma era finita nello spam e io non l'ho letta, purtroppo, però la leggo adesso, visto che, insomma, ci hanno scritto e ci fa sempre tanto piacere. Giovanni Scarpati ci scrive appunto per la puntata scorsa, quella dove avevamo chiesto il gioco migliore e il gioco peggiore, il suo gioco dell'anno è Left 4 Dead 2 e la vaccata dell'anno è Resident Evil 5. Lui dà la motivazione e più o meno dice quello che abbiamo detto noi, ovvero Left 4 Dead è adrenalinico, divertente, impegnativo, un gameplay profondo e giocato a livelli seri e di un infinito, in quanto ogni partita regala momenti veramente esilaranti. Cioè, per quanto riguarda Resident Evil 5, purtroppo a suo parere è un gioco che non ha senso che esista oggi un gioco così. Alle soglie del 2010 non si può concepire un gioco che ha perso il suo genere di appartenenza e cerca di emulare le emozioni e le situazioni che hanno reso il quarto capitolo un capolavoro, per non parlare di un sistema di controllo che definire imbarazzante dir poco. Concordo. E poi dice giustamente: nessuno oggi, anche una cosa molto pugno alzato, nessuno oggi può costringerti o a muoverti o a sparare, non esiste, almeno non esiste senza una giustificazione decente. Comunque lui poi dice che sperava, perché a questo punto ce lo siamo perso, che queste sue scelte l'avessero fatto insultare in diretta o meglio in differita, ma visto che sono le scelte che abbiamo fatto anche noi, ti diciamo bravo, perché è la stessa cosa che abbiamo pensato. Guarda, io posso rinforzare quello che dice di Resident Evil 5, perché ho giocato di recente Dead Space. Ah, sì, e cazzo, Dead Space è quello che avrebbe dovuto essere Resident Evil 5. Sì. Concordo pienamente. Ma palesemente, cioè fa le stesse cose di Resident Evil. Però le fa meglio. Solo che le fa meglio, cioè non è che, ma non è neanche meglio, le fa come vanno fatte. Cioè. Anche perché Dead Space, già solo lo stare fermo e con le cuffie ascoltarti il suono dell'astronave, cioè in... come dire, tutti quei... l'atmosfera che impressionante, impressionante. No, no. Sì, ma è proprio, cioè, questa qua è la gente che sta facendo Dante's Inferno, che è God of War. Sì. Con Dead Space hanno fatto Resident Evil 5. Voi l'avete provato il demo di Dante's Inferno? A parte tu, Andrea, che lo so, tu Gianluigi sì, l'hai provato? Come? No. Di Dante's Inferno. È veramente un plagio a dir poco imbarazzante. A parte Dante diventa un crociato con la croce dei crociati cucita sulla pelle, cucita, se la cuce all'inizio del demo, e in pratica va all'inferno perché i demoni gli rapiscono Beatrice. No, aspetta, puntualizziamo. Va all'inferno perché ha tradito Beatrice e Beatrice per vendetta si fa trombare da Lucifero. Sì. Tra parentesi, Beatrice... Almeno, nel senso, allora, che Beatrice si fa trombare da Lucifero, si vede, perché proprio le infila la lingua in gola. Si vede. No, vabbè, nel senso, se la slingua lì davanti a Dante guardandolo anche e si intuisce, insomma. Tra l'altro Beatrice è completamente nuda. Il tragitto precedente, cioè una cosa che si intuisce, perché lei dice tipo, mi fidavo di te, me l'hai piantata in cucina. Sì, sì. Sì, comunque è veramente atroce. Comunque andiamo avanti. Invece la seconda mail è di Flame, che spamma la stessa mail a tutti i podcast conosciuti del genere umano italiano, ovvero ad Outcast, a Rincast e anche a Onda Ludica. Noi citiamo sempre tutti perché siamo dei signori, anche se gli altri ci dicono che siamo incompetenti. Siamo dei signori incompetenti. Ma chi è che ve lo dice che siete incompetenti? C'è stato... Chichi, come si chiamava? Che se me lo ricordo, siti qualcosa. Chichi. Ha detto che siamo degli incompetenti perché nel primo episodio parlavamo di giochi che non avevamo giocato. Che adesso io non mi ricordo che cosa abbia detto. Non esiste sta cosa. No, poi magari era che parlavamo di giochi che dovevano uscire. Non... Esatto. Magari abbiamo detto, non l'ho ancora giocato. Posso dire, come diciamo spesso, potrei dire una stronzata, però secondo me quel gioco è una merda. Cioè, è ovvio, se non l'ho giocato lo sto dicendo che è una merda, però... invece, vabbè, lui ci fa i complimenti, un podcast molto divertente il tentacolo. Lui ci segue dallo speciale Rincast Extra 4, dove ci siamo incontrati per la prima volta, che manco sapevamo di fare il tentacolo. Soprattutto Maderna è un giusto, scusate. Ti seguo anche su Outcast, complimenti anche a Davide e Gianluigi, grazie, perché sennò ti caricavamo di mazzate. Però lui è un giusto. Lui è un giustone. Vabbè. Comunque, fa questa domanda che appunto ti ritroverai anche per altri lidi. Potendo scegliere, debellereste col fosgene, che non so cosa sia, dai videogiochi, il protagonista. Allora, cita tre tipi di protagonista. Sottolineiamo che quanto segue non sono parole nostre, ma sono parole del lettore. Esatto. Sto leggendo. Amerrigano, due punti, indipendentemente dal contesto storico-geografico, è sempre un negro del ghetto losangelino, con movenze da scimpanzé, vocabolario ridotto a tre parole. Questo è il primo. Secondo me però devi dire amerigano. Amerigano. Questo è il primo stereotipo. Il secondo stereotipo è il Tokyo hotellato, giappo, con capelli sparati, con costumi troppo sgargianti per non essere radioattivi, declama con tragica epicità frasi lunghissime scritte da un pederasta represso. Oppure il terzo... E il terzo è un europeo, dove lui si chiede se esistono. Allora, io non ho capito la domanda, sinceramente, però io veramente personaggi del genere ho più visto personaggi tipo il giapponese che l'americano ridotto così, perché... Tutti i protagonisti di colore che mi ricordo sono tipo quelli di Vice City e di GTA, sono tutti persone... A me viene in mente il, come si chiama, quello di Gears of War, ma quello effettivamente è un po' così, non il protagonista, il... Sì, Dom. No, non Dom, uno degli altri due che incontri continuamente, dai, oddio, quello che arriva, oh, spacchiamo il culo! Sì, però non è il protagonista quello, capito? No, parliamo di personaggi, allora sono d'accordo, tipo, come so, Saints Row è pieno zeppo di gente così, anche GTA è pieno zeppo, però dovessi scegliere, forse scelgo di cancellare il giappo, perché tanto non ho mai giocato neanche Yakuza, quindi non saprei cosa dire. Yakuza è molto bello, tra l'altro. Lo so, però non avendo mai avuto esperienze, boh. Io sono molto indeciso, perché come estetica non sopporto lo stile giapponese, capellazzo, però in realtà io c'ho proprio dei problemi col ghetto nigga, rap e robe, non è proprio un... A me stanno più sul cazzo i personaggi tipo calvi con il cappuccio. Cioè quello di Proto. Sì, esatto. A me stanno sul cazzo i personaggi di Ubisoft, allora. Allora, insomma, vabbè, ma ognuno ci avrà qualcuno, tipo alcuni avranno stereotipi su Super Mario perché c'hai complessi di inferiorità. È chiaro, sì. Cioè, gli stereotipi europei non ci sono, perché noi non facciamo niente, ormai non facciamo più giochi, quelli che facciamo li copiamo dagli americani. Scusa Valeria, hai detto uno gli sta sul cazzo Super Mario perché hai complessi di inferiorità. Come fai ad avere complessi di inferiorità con Super Mario? No, nel senso, Super Mario non è noto per avere complessi di inferiorità, perché è piccolo, deve sempre salvare la principessa. No, aspetta, suo fratello c'ha i complessi di inferiorità, perché cioè Luigi patisce il fatto che Mario è sempre l'eroe che salva tutti. Ma Luigi non Mario è quello un po' più... Luigi si fa il funghetto, là. Però Luigi è un po' più longilineo, no? Sì, però sì, c'è la regola della L, vabbè. che purtroppo è tristemente falsa, lo dice uno alto 1,74 e non 1,95. Confermo io che sono alto 1,85. Oh mio. Vabbè, non ci interessa. Comunque dico, tornando alla domanda, torna alla domanda. Sì, questi generi di personaggi qua comunque servono, sennò che cacchio gli metti nei videogiochi? Ma sì, e comunque ma... l'europeo c'è sempre il studio siciliano stronzo che parla con accento bruttissimo. i giochi li devi vendere agli adolescenti americani e agli adolescenti giapponesi, e cosa gli vuoi mettere come protagonisti? Addio, però l'italiano che parla sempre in siciliano. Ma noi siamo colonizzati dagli americani. Ah, sì, ma poi all'italiano gli metti una ricostruzione di Firenze, una costruzione di Venezia, uno che dice esatto. It's me, Mario. Allora, noi italiani tanto ci sentiamo a caso ovunque, basta allora ci metti una Firenze, una moto e Del Piero e hai vinto. Che cazzo c'è? Ma scusa, i giochi più venduti in Italia sono i giochi di moto e di calcio. Ah, ok, ok, allora, l'ho capita, pensavo all'uccellino di Del Piero. Vabbè. Va bene, comunque direi che dopo questa risposta seria e perfettamente competente possiamo salutare il pubblico che ci ha seguito fino qua. Ringraziamo innanzitutto Valeria che si è sorbita un pippone di podcast di 2 ore. Peraltro ci ha fatto molto piacere averti qua e hai dato degli spunti non indifferenti, soprattutto su come utilizzerà Zara il Natal. Vuoi salutare qualcuno, Valeria? Fare un... Ma saluto tutte le ragazze dei videogiocatori all'ascolto, ecco. Mi sento vicino a voi. Questo una è diventata fan, effettivamente, su Twitter. No, invece di una cosa che mi hai detto prima in fuori onda, come ti pare la tipa di Bayonetta? Un cesso, detto. Perfetto. Il mio ragazzo sta morendo oltre che sul videogioco anche. Comunque non vi... Gianluigi e Andrea, volete fare dei saluti visto che il Duomo di Milano l'abbiamo già salutato la volta scorsa? Io saluto la mia salute che se ne va. Ok, e anche un 26 direi che sì. Super merito. Sperando che sia il primo di tanti 30 però. Okay. Io saluto la mia competenza che ho scoperto di aver perso con questo podcast. Vabbè, anch'io saluto la tua competenza che hai perso in questo podcast. Va bene ragazzi, allora vi ringrazio, un salutone e ci sentiamo forse, se tutto va bene, il mese prossimo. Ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao. I contatti del Tentacolo Viola sono, come al solito, il blog iltentacoloviola.splinder.com, dove si può anche trovare il link alla nostra pagina di Facebook dove diventare fan. Su Twitter, twitter.com/iltentacolo, naturalmente su iTunes, inserendo nel campo di ricerca il Tentacolo Viola. Se volete scriverci, che ci fa sempre tanto piacere, l'indirizzo di posta è come sempre iltentacoloviola@gmail.com. Vi ringrazio, un salutone e alla prossima. Ciao ciao!